Sport e motori con Massimo Di Scienza. Amici di Radio 24, buona domenica, buon pomeriggio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Sport e Motori in diretta fino alle 17, in questa domenica un po' interlocutoria perché non ci sono gare, si riposa tutto in ferie nel mondo della Formula 1 e del motomondiale, ma non per questo mancano gli argomenti da approfondire, gli argomenti di discussione che come sempre vogliamo approfondire insieme ai nostri due compagni di squadra, i nostri due Carlo preferiti, Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. Buona domenica, direttore, eccoci qui. Buona domenica a tutti. E un saluto anche a Carlo Vanzini, inviato, firma numero uno dei motori di Sky Sport. Ciao Carlo, buona domenica. Ciao Max, ciao Carlo e buona domenica a tutti. E allora, siamo di nuovo insieme per questa mezz'ora più o meno a disposizione per fare un po' il punto della situazione in una domenica, dicevamo, senza gran premi né in Formula 1 né per quanto riguarda il motomondiale. Partirei proprio dalla Formula 1. Una settimana al ritorno del mondiale in quel di Spa-Francorchamps, un gran premio attesissimo. Partirei da Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. Che settimana ti attendi, direttore? Cosa andremo a vedere da qui ai prossimi giorni per quanto riguarda la Formula 1? È difficile dire cosa andremo a vedere, c'è molta curiosità perché arriva una pista vera e questa, devo dire, Spa è sempre la pista regina e che garantisce sempre grandi gare. Io mi aspetto dai piloti con il più alto talento che sono Hamilton e Alonso, mi aspetto una grande gara a Spa, devo dire, e penso anche che, rischio in questo caso qui, che la Red Bull avrà un po' di difficoltà perché non ha una grande velocità. È vero che è una pista dove la tenuta di strada conta tanto, ma è anche una pista dove si va forte. Mi aspetto una bella gara, sì, credo che Spa, poi se pioverà si aggiungerà ovviamente qualche cos'altro, perché in Belgio le sorprese non mancano mai, e specialmente se piove vediamo dei piloti considerati comprimari che possono fare molto bene, oltre a quelli che sotto l'acqua sono fenomenali come Vettel, che è sempre bravissimo, oltre ai due già detti, penso anche Button se piove. Carlo Vanzini, l'ha incontrato di recente Fernando Alonso, pensi che Spa-Francorchamps possa essere la sua pista o per lui prevedi qualche difficoltà? Guarda, il direttore ha fatto un'analisi perfetta, perché Fernando Alonso a Spa teme soprattutto la McLaren, teme soprattutto Lewis Hamilton, l'ha dichiarato, ha detto sono sicuro che lì tornerà ad essere molto competitiva la McLaren, però va detto l'esperienza dello scorso anno insegna quanto la Ferrari, in una stagione assolutamente disastrosa, su quella pista, una Ferrari che è sempre stata nelle prime posizioni come velocità di punta, si è trovata a vincere con Raikkonen, a battagliare addirittura, lo ricorderete, una gara incredibile con la Force India di Giancarlo Fisichella. Quindi la Ferrari parte dall'esperienza dello scorso anno per quanto riguarda la ricerca della velocità, si presenterà, da quello che mi hanno detto, con delle nuove soluzioni, quindi ci saranno delle novità ovviamente studiate prima di questo periodo di pausa. Da domani si riapre la serranda, tutti al lavoro per preparare questo weekend che sarà straordinario. Spa per me è unica al mondo, è una pista straordinaria. Io quando l'ho vista dal vivo la prima volta ho detto no, non è questa la pista, perché andando va bene l'Eau Rouge, ma quando si va dietro nella foresta e poi si va in discesa, vi assicuro che la discesa non è una discesa qualsiasi, è una picchiata pazzesca, è un cavatappi formato Formula 1. Quasi. Direttore, dov'è che la Ferrari deve migliorare? Carlo Vanzini ci accennava a novità importanti in arrivo da qui nei prossimi giorni. Io credo che oggi le novità importanti, che sono importanti, il termine è giusto, sono però cose molto impalpabili per la gente comune. Oggi in Formula 1 è difficile che vediamo una macchina che ha una faccia diversa, sono cose sotto pelle, ma in un mondo in cui si viaggia sui millesimi di secondo, una cosa importante è quella che vi fa guadagnare 4 millesimi, che fa ridere, ma può essere decisivo per in questa lotta così serrata, anche se su una pista come Spa ci vuole tanto anche il pilota. Io rimango dell'idea che Spa è una pista vera dove il talento diventa determinante, ovviamente con una macchina che va. Giustamente Vanzini ha ricordato l'anno scorso la grande corsa di Raikkonen e devo dire la grande corsa della Force India, che fu che fu veramente straordinaria con Fisichella, perché andava forte esattamente come la Ferrari, devo dire. Quindi quelle sorprese che dicevo prima su Spa non mancano mai. Ferrari mi sembra già molto a posto, devo dire la verità, e mi sembra più veloce della sua diretta rivale, in questo caso la Red Bull. Quindi io penso che, insomma, se non fa una grande gara è una delusione, secondo me. Carlo Vanzini, Spa-Francorchamps, poi anche Monza, possono essere le due gare che possono rilanciare le ambizioni Ferrari per il titolo? Ci sono dei punti da rimontare, sia per quanto riguarda il campionato piloti che per quello costruttori, ma arrivano nel momento giusto queste due gare, secondo te? Poi lo chiedo anche al direttore. Ma arrivano in un momento giusto, non direi, perché comunque poi la stagione è ancora molto lunga. Sono due gare da non sbagliare, perché poi si va oltreoceano, poi diventa difficile anche lavorare sulle macchine o comunque lavorare in fabbrica per migliorie dell'ultima ora, perché poi le trasferte diventano lunghe e la spedizione di pezzi è abbastanza improponibile sul finale di stagione. Cosa diversa invece si parla di una gara europea o addirittura di Monza Italia per la Ferrari. La Ferrari deve assolutamente fare un gran premio di testa a Spa, perché poi sappiamo a Monza ha sempre sofferto negli ultimi anni, speriamo invece che quest'anno possa regalare una grande soddisfazione a Monza, ai tifosi della Rossa, però a Spa deve, secondo me è un momento chiave della Ferrari, e a Spa, se lì riesce a star davanti alla Red Bull, e magari va bene anche Hamilton davanti a quel punto, perché comunque la corsa, a mio avviso, si fa sì su un Hamilton che va assolutamente tenuto in considerazione, non sottovalutato, ma attenzione soprattutto alla Red Bull. Quindi bisogna stare davanti alla Red Bull e ovviamente cercare di stare davanti alla McLaren, ma giocarsela con la McLaren. L'importante è una gara, forse Spa più decisiva. Se riesce a fare punti pesantissimi a Spa, allora poi si gioca la grande volata. Se a Spa dovesse uscire battuta dalla Red Bull e dalla McLaren, allora uscirebbe ridimensionata. Io credo che la Ferrari possa avere i mezzi per poter fare bottino, forse addirittura pieno a Spa. Poi, come diceva il direttore, Spa è talmente straordinario non solo per la pista ma anche per il meteo, che allora può diventare può succedere di tutto. Una gara ancora più spettacolare. Quindi, direttore, anche per te Spa, gara chiave della stagione, chiave di volta quasi per provare a puntare al titolo? Sì, io credo, sono ovviamente d'accordo, perché sono tutte analisi intelligenti queste fatte. Credo che sia più chiave Monza, mi spiego perché dico questo, nel senso che Spa l'imprevedibilità esiste comunque, la safety car può entrare se c'è brutto tempo, molto di più. Monza è una gara invece normalmente programmabile, quindi è vero che la Ferrari ha fatto sempre fatica, però qualcuno la programmerà bene Monza, quindi Monza può diventare una trappola. Bisogna fare molto bene anche a Monza, secondo me, perché Monza in condizioni normali è una gara che chi ne ha di più si vede, insomma, perché c'è la velocità, le grandi frenate, la Ferrari in questo momento è molto veloce, e poi è una pista che paradossalmente Monza è anche molto insidiosa, perché sono un paio di staccate dove cadere in trappola è facile, e la Ferrari ha piloti esperti e al pilota anche giusto. Io credo che sì, Spa è una pista dove bisogna fare bene, ma Monza bisogna programmarla per non topparla. Infatti c'è un grande sforzo della Ferrari su Monza, perché la nostra pista di Vairano, che viene sempre seduta in la segretezza, vostra, di, 1, vostra di quattro ruote, ricordiamo, del gruppo. Sì, insomma, la pista di Vairano di quattro ruote ha il rettilineo più lungo d'Europa, che 2 chilometri, viene usata non tanto per girare ma solo per far prove di aerodinamica, e sono chiave in ottica Monza. Infatti sono già prenotati sia la Ferrari che la Sauber, che la Toro Rosso. È una pista che viene usata moltissimo, quindi non proprio per l'aerodinamica, perché Monza è una gara da preparare nei minimi particolari, nei dettagli. Direttore, a proposito di preparazione nei dettagli, sfogliando così i giornali questa settimana in assenza di grandissime notizie, però abbiamo letto che sono in corso le prove della Pirelli, i test della Pirelli, che lo sappiamo sostituirà Bridgestone come fornitore unico per le gomme in Formula 1 per la prossima stagione. Cosa ti aspetti da questa novità, sia, come dire, per le scuderie e per i piloti, sia anche per gli spettatori? Ma devo essere sincero, il fatto che esista una monogomma, come dicono molti team di Formula 1, qualsiasi cosa mi dà, se la casa sarà corretta e non abbiamo motivo di non pensare che la Pirelli non sia all'altezza, una volta che danno gomme uguali a tutti, il problema possono essere più o meno performanti, ma nel momento che sono uguali, devo dire, alle case poi vanno bene, dovranno giocare con quelle armi e questo andrà bene. Bisogna dire per onestà che Pirelli ha dato le gomme al Mondiale Rally e sono andate molto bene senza mai lamentele, le dà la Superbike e stanno andando con le Pirelli tutte uguali, quindi il vero problema è che faccio una gomma che tenga, ma non ho dubbi, non pensarci, già ci lavorano da adesso, hanno preso secondo me un pilota straordinario per fare i test come Heidfeld, che è veramente un pilota che tutti giudicano bravissimo nella messa a punto, nell'impegno, nel lavoro, nella meticolosità. C'è da pensare che arriveranno delle gomme molto buone, poi fare i confronti dei tempi sarà una cosa che cambia poco, anzi io mi auguro che diano delle gomme che non tirino trappole. Quest'anno, bisogna dire la verità, ogni tanto qualche team che si lamenta di un treno di gomme rispetto a un altro c'è, e anche con troppa frequenza. Parentesi su Heidfeld, forse avrebbe meritato qualcosa di più da questa stagione piuttosto che una terza guida, no? Heidfeld è veramente, guardate, credetemi, Heidfeld è un pilota straordinario che non si lamenta mai, che qualsiasi cosa gli viene data, e fare il confronto, se noi facciamo il confronto nei due anni che ha fatto, nei tre anni con Kubica insieme, due volte ha finito con più punti lui. Questo per dire che è meno spettacolare, probabilmente ha meno colpi d'ala, ma è un pilota di una costanza di rendimento, solo che nella sua vita era un pilota McLaren e gli preferirono Raikkonen, un pilota Mercedes e gli preferirono Raikkonen, ha sempre avuto qualcuno davanti, che gli è arrivato davanti, perché lui è veramente troppo understatement per fare per questo mondo dorato, troppo gentleman probabilmente. Direttore Cavicchi, prima di salutarti, con Carlo Manzini invece restiamo nella seconda parte per parlare di MotoGP. Il collegamento non può che essere questo tra i due mondi, mondo della MotoGP sconvolto ovviamente in senso positivo dalla notizia del passaggio di Valentino Rossi in Ducati. Per quanto riguarda il mondiale invece di Formula 1, il mercato piloti si sta muovendo in questi giorni oppure è ancora tutto fermo in attesa di quello che accadrà nelle prossime gare? Direi che è un mercato estremamente ingessato, io non credo che si sposterà nulla. L'unico dubbio sarebbe questo Massa di cui si dice qualche cosa, ma io onestamente non lo credo. Credo che sia tutto molto bloccato per i posti che contano, ovviamente. Dopo, nei team, i team sono troppo fermi. E ormai questa ansia di fermare i piloti a inizio stagione o per anni. Una volta il mercato dei piloti era ed era divertente, adesso mi sembra ingessatissimo. Staremo a vedere. Grazie a Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote, al lavoro per l'uscita del numero, prossimo numero di settembre del mensile, poi magari ne parliamo meglio la prossima settimana, dove commenteremo con te anche ovviamente l'appuntamento di Spa-Francorchamps. Ciao direttore, buona domenica. Arrivederci a tutti. Sport e motori. E se il mercato della Formula 1, il mercato piloti, è ingessato, quello del motomondiale, in particolare della MotoGP, è invece effervescente, frizzantissimo, con tante bollicine. Il bollicione è scoppiato settimana scorsa e lo abbiamo vissuto praticamente in diretta, perché proprio mentre andavamo in onda domenica scorsa attendevamo le notizie che poi sono arrivate nel corso del pomeriggio che documentavano il passaggio, l'ufficialità del trasferimento di Valentino Rossi alla Ducati. I due comunicati, quello della Yamaha e poi quello della Ducati, nel mezzo anche la lettera d'amore, come è stata definita, di Valentino alla sua Yamaha. Poi nei giorni successivi il video di Valentino Rossi, le prime interviste praticamente da ducatista a Brno per quanto riguarda le prove che si tenevano sul circuito della Repubblica Ceca nel giorno di lunedì, e poi ovviamente tutti i commenti che si sono susseguiti in questa settimana. Abbiamo avuto modo di ascoltare il parere un po' di tutti su questo che è stato definito il trasferimento dell'anno. Forse anche al di là del MotoGP, anche insomma nello sport a tutto tondo a livello mondiale, il passaggio di Valentino in Ducati è destinato a segnare il 2010. Continuiamo a parlare con Carlo Manzini, inviato di Sky Sport. Ben ritrovato Carlo. Ciao. Allora, domenica scorsa eravamo qui a chiederci quando sarebbe arrivato il comunicato ufficiale. Ne sono arrivati anche troppi, nel senso che è arrivato prima quello della Yamaha, poi la lettera di Valentino, e poi il video, e poi le dichiarazioni, e poi la Ducati, e poi insomma tutto il resto. Però resta il fatto che questo trasferimento, Max, insomma, segna l'anno. Dimmi. Max, ti faccio una controdomanda. Vai. Anzi, precedo la tua domanda. In quanti hanno parlato della vittoria di Lorenzo? Meno due, credo. Forse neanche Lorenzo stesso è stato lì a rifletterci. L'hai quasi studiata questo annuncio, quasi studiato l'annuncio di Valentino Rossi nel giorno in cui Lorenzo mette praticamente le mani sul mondiale. Vabbè, l'avevamo detto che se, insomma, sarebbe... sarebbe stata una ricerca mediatica anche questa da parte di Valentino Rossi nel suo passaggio alla Ducati. D'altronde è laureato, è dottore in comunicazione, quindi Valentino Rossi in tal senso è maestro nell'occupare gli spazi, e così si diventa anche campioni. È una prova nel passato anche con Alberto Tomba. Alberto Tomba era uno che non dava assolutamente spazio agli altri, gli altri soffrivano e di testa Alberto Tomba partiva già con un vantaggio sugli altri perché gli altri erano in sofferenza. Lo stesso fa Valentino Rossi, non è forse una cosa studiata, non è una cosa ricercata, ma sicuramente fa parte del DNA del campione mettere sotto pressione gli altri anche senza girare. Carlo, non brillerò per originalità, ma insomma ti faccio tre domande che poi anche sulla stampa specializzata in questa settimana si sono un po' rincorse. La prima domanda è se Valentino Rossi ha fatto bene o no a lasciare la Yamaha. Secondo me era maturo ormai per l'addio alla Yamaha, soprattutto nel momento in cui la Yamaha ha dato grossa fiducia a Lorenzo, quindi ha messo un altro gallo nel pollaio, soprattutto ha messo un gallo più giovane, uno che fa il canto grosso, e quindi nel momento in cui Valentino Rossi si è trovato a non aver forse più non sentirsi più unico leader della squadra, in quel momento ha fatto bene a scegliere una direzione, una nuova strada che lo porta a essere nuovamente leader unico, perché adesso tutti dovranno lavorare con lui, seguire le sue indicazioni, sentire quello che dirà Valentino Rossi, quindi lui si ritroverà di nuovo, diciamo così, imperatore, ed è quello che cercava, e soprattutto lo fa con questa nuova esperienza che è, come hai detto tu, l'evento dell'anno, probabilmente il passaggio di Valentino Rossi in Ducati, o l'evento storico della classe regina del moto mondiale, dalla 500 ad oggi. Secondo me questo è il momento più bello per lo sport italiano. Non è un caso, Carlo, che i giornali, non soltanto la stampa italiana ma anche quella internazionale, abbia tra virgolette celebrato l'evento quasi come più di un titolo mondiale di Valentino. Abbiamo visto così caratteri cubitali quasi ampi quanto quelli del nono, dell'ottavo, del settimo e via via negli altri campionati del mondo. Valentino riuscirà a vincere il mondiale anche con la Ducati? È presto per dirlo oppure ci sono delle buone speranze, Carlo? È presto per dirlo. 4-5 anni fa ti avrei detto sì, sicuro, a mani basse. Così come ero sicuro che il mondiale l'avrebbe poi vinto con la Yamaha come ha fatto. Lui ha dichiarato: ci vuole un po' di tempo, forse non il primo anno, ma il secondo anno saremo in lotta per il titolo mondiale. Io non credo sia solo un discorso tecnico, perché Valentino Rossi è soprannominato il dottore per come cura le moto e come le mette a punto, quindi da un punto di vista tecnico sono sicuro che Valentino Rossi darà un apporto straordinario e metterà la Ducati nelle condizioni di avere una moto di testa. L'aspetto forse da vedere è quello fisico, quello psicologico anche, perché comunque adesso gli avversari sono tanti, sono giovani, quindi bisognerà vedere Valentino Rossi con l'età che avanza come si porrà contro questi giovani che stanno andando veramente forte. Quindi l'unico dubbio resta sull'integrità del fenomeno. Vedere se resterà fenomeno anche con gli anni in più. Si sa che dai 30 in poi ogni anno in più vale molto di più rispetto al periodo dei 20 anni, quindi l'unico dubbio è quello. 4-5 anni fa te l'hai detto assolutamente sì, adesso ti do un 90%, dai. Ultima domanda, non è poco comunque. Insomma, no, ben... La fiducia è tanta. Appunto. Senti, un'ultima domanda appunto di quelle che ci siamo fatti un po' in questa settimana e che hanno fatto anche i giornali con le loro varie inchieste, eccetera. Ci guadagna di più la Ducati a prendere Valentino o Rossi ad andare in Ducati? Ti anticipo la risposta della stragrande maggioranza degli intervistati: ci guadagna nettamente di più la Ducati a prendersi in casa questo fenomeno. Per Valentino sono soprattutto rischi. Tu cosa ne pensi? Sì, inizialmente sono d'accordo, ci guadagna molto di più la Ducati perché come immagina MotoGP, la Ducati se vogliamo è la moto per eccellenza e lo è soprattutto nella Superbike, l'immaginario collettivo, i ducatisti puri sono più forse legati al mondo della Superbike, non a quello del moto mondiale, della MotoGP. Con l'arrivo di Valentino Rossi si vogliono non spostare i valori, perché comunque chi è amante della Superbike resta amante della Superbike, ma portare nuovi tifosi anche o comunque poi appassionati su quella che è la MotoGP, e con Valentino Rossi la Ducati questo riuscirà a farlo. Sono sicuro che venderà più moto, sono sicuro che riuscirà a migliorare anche il mercato che già è forte, quindi sicuramente di partenza ci guadagna molto di più la Ducati. Vincendo poi ci guadagna molto di più Valentino Rossi, perché diventa, secondo me lo è già, leggenda, lo diventa proprio in modo indescrivibile a quel punto. Dovesse vincere il mondiale con la Ducati, allora già non abbiamo parole, non so, potremmo fare una mezz'ora in silenzio per applaudire il fenomeno. Sì, sì, non c'è dubbio. Forse non sarebbe un'impresa come quella del 2004, quando arrivò in Yamaha e vinse subito con una moto che, come ha ricordato anche lui, partiva sempre da metà griglia, però sarebbe sicuramente una cosa straordinaria, anche perché la Ducati, abbiamo visto quest'anno, avere forse più difetti che pregi come moto. Senti, a proposito di Ducati, è notizia di questa settimana, non ufficiale, ma insomma ci siamo quasi, il rinnovo per Aiden, che resterà per altri 2 anni a Borgo Panigale, e quindi insomma sarà lui il compagno di squadra di Valentino. Si ritrovano i due dopo l'esperienza alla Honda, però Aiden all'epoca era giovanissimo e Valentino era già il campionissimo invece. Compagno giusto per affiancarlo in questo inizio di esperienza, comunque lui è da tanti anni ormai, non tantissimi ma tanti, in Ducati, conosce bene l'ambiente, insomma ti piace questa accoppiata? Ma direi di sì, perché intanto si conoscono, Aiden non è uno fastidioso, non è uno, anche dovesse andare molto forte, comunque poi non è uno che va a reclamare diritti, anche perché Aiden è consapevole che se dovesse di colpo tornare a essere velocissimo a livello del titolo vinto, lo deve a Valentino Rossi che gli sistema la moto. Aiden o gli altri in questi anni che hanno affiancato, come Melandri, hanno affiancato Stoner, hanno sofferto molto la presenza di Stoner, perché Stoner voleva una moto così, nervosa, e loro praticamente non stavano in strada. Con Valentino Rossi, Aiden è un ragazzo intelligente, sa benissimo che Valentino Rossi arriverà e metterà giù in pista una moto che andrà molto meglio a lui rispetto a quella che voleva Stoner, di conseguenza ben venga anche per lui Valentino Rossi, il rapporto sarà secondo me perfetto, non ci saranno problemi, e credo che in questo momento è il compagno anche che Valentino Rossi vuole avere al suo fianco. Caro, per concludere, 2 domande veloci, 2 risposte altrettanto sintetiche. La prima riguarda il mercato piloti, abbiamo detto più volte di Spies come possibile arrivo in Yamaha come compagno di squadra di Lorenzo, hai altre novità sia sull'argomento sia in generale su possibili sviluppi per le altre case? Ma io credo che Spies può tranquillamente essere il compagno giusto per Lorenzo, sono tutti e 2 giovani, sono tutti e 2 veloci. Lorenzo in questo momento, soprattutto andando a vincere il campionato del mondo, si sente più forte, quindi non ha problemi ad avere di fianco avversari che possono essere molto competitivi, ma credo Lorenzo sarebbe tranquillamente rimasto anche con Valentino Rossi, perché sai, quando inizi a vincere, inizi a capire che sei veramente forte, allora poi puoi avere di fianco chiunque, che ti senti comunque imbattibile. Per il resto il mercato chiaramente è fermo a questa decisione per quanto riguarda la Yamaha, per vedere chi affiancherà Lorenzo, e poi a cascata andranno le altre pedine con Pedrosa, che ha annunciato che lui resterà, quindi insomma avremo questa coppia con Stoner molto molto calda, Dovizioso che resterà comunque con mezzi un po' più ufficiali, diciamo così, rispetto a quelle che ha a disposizione adesso. Il mercato anche qua in questo momento è abbastanza bloccato e fermo, Capirossi che farà un'altra stagione, quindi abbiamo un mercato che bene o male ci porterà a una MotoGP molto simile a quella che abbiamo avuto quest'anno come protagonista, ovviamente con gli spostamenti che abbiamo citato, importanti, di Stoner e di Valentino Rossi. Io sono curioso di vedere Spies con sì, una bella sfida. È una bella sfida perché è stato molto bravo quest'anno. Ultima domanda, 10 secondi, anche perché domenica si corre ad Indianapolis, ti aspetti un altro dominio Lorenzo oppure prevedi qualche sorpresa? Ma a questo punto Lorenzo può anche accontentarsi, nel senso può iniziare a fare dei calcoli, se dovesse trovarsi in bagarre a quel punto può mettersi tranquillo in seconda posizione, a meno che la bagarre non sia con Valentino Rossi, allora no, si butterebbe dentro. C'è da curarsela quindi quasi. Se no si mette lì in gestione mondiale, se invece ne ha di più come nell'ultimo Gran Premio se ne va e prende ancora la vittoria. Grazie a Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport, appuntamento a domenica prossima anche con te per commentare insieme Formula 1 e Moto Mondiale. Ciao Carlo, grazie. Ciao a tutti, grazie. E grazie anche a Peter Bescapè che ci ha fatto compagnia in regia, ci ha guidato in questa mezz'ora insieme. Grazie a voi per essere stati insieme a Radio 24, per averci scelto anche in questa domenica. Adesso l'informazione delle 17, poi le mine vaganti con Federico Taddia. Da Massimo Di Scienza l'augurio di un'ottima settimana. Ciao!